Io ti vorrei parlare sottovoce, non far sentire al cuore quello che ho da dire. Condizione essenziale affinché tutto sia migliore. Puoi scommettere il cielo che è vero più del vero. Io ti vorrei parlare quando gli occhi non hanno più risposte nuove, con parole annodate lì non sai da quanto. Io ti vorrei parlare prima che il vento porti via le foglie, prima che un gesto poi non serva a niente. La coerenza è un destino incerto per ognuno, prima che sia più forte più del tuo profumo, prima che il tempo passi a un altro amore, prima che il gioco sia di non partire, al di là dei discorsi fatti e della gente, anche prima di avere fretta, fretta come sempre. Ti vorrei parlare per capire qual è il tuo senso delle cose, se quel vuoto ricresce già con nuove frasi dette come da sempre a ribaltare il niente. Io ti vorrei parlare sottovoce, non far sentire al cuore se un bisogno, un bacio, quel ti amo sospeso a sospirarne dieci. Io ti vorrei parlare prima che il vento porti via le foglie, prima che un gesto poi non serva a niente. La coerenza è un destino incerto per ognuno, prima che sia più forte più del tuo profumo, prima che il gioco sia di non partire, al di là dei discorsi fatti della gente, anche prima di avere fretta, fretta come sempre. Forse che fra 100 anni e 1000 amanti ti prenderò per mano io soltanto.